di radio che erano mucchiate, adesso due sono andate via, quindi ho fatto un po' di posto. Piacere mio, caro Gianni, fatti sentire, vai Lugariè. Ciao Gianni, saluto la reclusione, buonanotte. E fatti in TND. Ciao, avanti il bombolo. Ciao Gianni, ci sentiamo al prossimine. Ciao, buonanotte. Ci dà anche una in più, a regalare i nonchi. Andavè, dai ragazzi. Sempre in gamba, anzi su due o su tre, dipende, dai. Grazie alla compagnia, dai, ci sentiamo all'improvviso come stasera. Buonanotte, state a corte, uè. Quanto c'era una gamba? No, dico, mi raccomando, state in gamba, su due o chi ha possibilità anche su tre. Tanto non fa come ti chiedo ex collega mio, adesso in pensione, poverino, ha avuto un incidente, cazzo, ha avuto un incidente. Vabbè, eravamo d'inverno, c'era il pantalone lunghi, già, cosa chissà, e c'è la gamba di legno, no? Adesso è mio amico, non so, adesso non mi ricordo già che stavamo facendo lavoro, eravamo dentro l'impianto della Santa Maria Covina, cioè, e ci è passato il cinghiale davanti al cancello. E l'ha detto, oh, ero già via, e ha detto, corri Giovanni, mamma mia, cazzo. Uia, dai, ragazzi, salutoni, dai, ci sentiamo nel prossimo, dai, statemi bene e niente, a Sibiri. Ciao, ci sentiamo, lo brofè, tante cosce belle, vai Lugariè. Nutella, con la Nutella. Scatta, ma comunque lo bucravo è micidiale, invece ti biglia. Scatta, un chi si corra che va, un chi si zanne. Se ti biglia appena ti fa di nuovo un uovo, è pericoloso. Noi quasi tutte le mattine troveremo a Santa Maria Covina spesso i sacchi del vaglio, no? Del vaglio delle griglie, capito? Mezza dei guru, panolini, di tutto arrivi in chiglia. È un depuratore qui. E lui tutte le mattine andava lì a furugiare, la prova tutto in terra. E qualche volta le tiravamo le pietre e se ne andava, e partiva a Bala Campagna. E invece il giorno cazzo ci stava attaccando. Allora ho chiuso subito il cancello ed è rimasto dentro. Cazzo, noi siamo fuggiti e io ci metto la via anche di regna, di cazzo fuggi. No, poi ti succa, è un bastardo. Ma molte volte però tende più a fuggire, tende. Ma se ti attacca. Uia! Come se già buffa fa casino, mamma mia! Non è bello non avere un cinghiale davanti così quando sei solo in campagna. Non so cosa vedi, no, dico la Santa Teresa. Non so cosa vedi. Vabbè. Quindi Lugariè non ci sei già per niente oggi giù? No, nulla, stavo facendo roba a 4, l'ho detto. Poi mi hanno portato una vicina di casa, una macchinetta da caffè, praticamente non scendeva, poi l'ho tutta smontata, a vedere un po', e come l'ho aperta era tutta piena di cose, di calcare. Usa, perché cazzo la macchina di caffè non se ne usa quel rubinetto? Devi usare acqua della bottiglia, ancora l'hanno compresa. Ci usava, ho usato l'acqua della bottiglia. Ho usato l'acqua della bottiglia e della calcaria. No. Vabbè, comunque poi gliel'ho richiusa, gliel'ho ridata, gliel'ho riconsegnata. E poi mi sono riposato, tra una cosa e l'altra. Una più grande di farà. Domani mattina deve venire mio fratello, che dobbiamo andare da questo amico suo per devo configurare lo smart TV. Allora già va bene. E poi sono anche la faccio, voglio accompagnare qua, adesso direttamente giù. Casino, andavo. No, si fa, io da voglio. Cazzo, mi gioco da romente, mi gioco, gioco il cracco. Dai. Buonanotte a tutti. Dai. Ce la recensiamo domani. Ciao ciao. Ciao ciao Anto. Ehi, perché dal lavoro noi siamo un po' più liberi. La ventolina si è attaccata a 140, molto bene. Non l'avevo ancora sentita in attacco. Ciao Anto, dai, ci aggiorniamo domani, vai lui. Ciao Boboia, domani. Ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao. Apri il buca l'acqua al radiatore a 140 qua. E io, la posta, ero scioccato, ho messo la linea. C'era il buco, ho fatto una radio, ho messo l'alimentatore, adesso sto andando con la PS430 e la colonnina a fianco, quindi c'è 430, 140, alimentatore e colonnina. E poi l'ultimo di tutti ho messo il 275H che era abbandonato da una parte, ho fatto una bella pulizia, cazzo si forma la lana dietro, la lana si forma. È pericoloso per le radio, capito? Perché te la porta dentro la ventola. Lo so, anche nei portatili, anche nei fissi. Si crea proprio la lana dentro. Comunque non ho capito perché mi stava facendo del problema il PMR, io non ho toccato niente. C'era un po' il cavo messo male, l'ho rifatto il PL, ho cambiato il PL anche. Adesso è fatto benissimo. Chissà cosa l'ha pigliato. Non lo ce l'ha pigliato, sono per radio, so cosa l'ha pigliato, boh. Cosa vuoi che le prenda, non lo so. Infatti adesso in cazzo i gusti, la piglia in culo. Ma infatti rimane così, gappa. Già va bene, la radio è bene, ma sì, l'ho spostata. Perfetta. Io l'ho messo la MC60, adesso mi vedete, l'ho messo a 275H, l'ho messo tutto a posto perché ho fatto dei sfruttamenti e stavo provando la radio, quindi mi ho approfittato a fare un po' di pulizia. Vediamo se c'è Antonello, attento Antonello, non c'è, mi ha detto che accendeva dopo cena, vabbè, ha ragione, cazzo ci vedete in mezzo. Che Antonello, buon pugno. No, Antonello di produttore, devo provare una radio. E chiama Antonello? Ehi, vecchio Cibino, lo conosci tu. C'ha 61 anni, eh? Sicuramente non lo conosco. Allora, questo mi termine qua di capo. Cazzo, mi intervinci, guarda, e dov'è che mi accendo la televisione? Non manco un voto di reggiato, invece va a dare il suo broccio di signorini. No, io l'ho connesso con screen, come lo dice qua, screen, vabbè, col telefonino tramite YouTube. Ah, ho capito, no, pensavo che era alla TV. Con lo smart, no? Caricato screen mirror, che si chiama. Ehi, io ti ho capito, tio. Già va bene. Non c'è problema. Ho portato un po' di aranciata amara. Ieri ero al bar, con un po' di campare, ho detto, papà, ma l'aperitivo ci facciamo un cardinale. No, ma mi dico un'aranciata amara. È buona, io la bevo, ogni tanto se ne ho voglia, ma la bevo, bella fresca, però d'estate soprattutto. Sì, è buona, fa digerire, ma va bene. Oia, c'è sempre a me a pensare che... non esisto più. Però vai, almeno un po' domani, sono un po', perché avevo deciso di farlo domani, sto lavoro domani mattina, invece me la giubbotta va, mangiato in fretta e me lo sono fatto. Ma tu vai, fresco. Eia, un po' casino, Lucia, lo sai quanto radio c'ho qua, piano di sopra, siccome vedo, quando sono seduto vedo sotto le radio, era tutto pieno di polvere, le ho tutte tolte. frescante, oddio, però capito, tutto bello pulito. E poi ho messo quelle sopra e ho fatto quelle di sotto, le ho appoggiate tutte per terra, e ora la rana da ritto. Ogni mese, ogni due mesi devi farlo, non c'è niente da fare, si forma la rana e se va dentro le radio è un casino, capito? Va nel vento, la... non va bene. Beh, certo, come ti ho detto prima, anche per il computer non sa fare questa cosa, se va a finire dentro. E chi vuole di tanto la pulizia, prima quando si è portato il mobile là, un casino, ma poi ci vuole giugare, poi sono cambiato la presa e non mi sono la proprio quelle buone, diciamo, e quella che c'era prima era un po' vecchiotta, e da due ne ho messo tre. Una, due, ne ho messo tre, come? Tre prese qua, in una scatola, tre. Ma di solito ce n'è una, no? Io ne ho messo tre. Dice che è buono, la bruna, che cazzo è riccia, tutto sbagliato. E funziona bene? Perfetto. Ora ti avvicino. Meno male, mi aveva fatto Archimede, queste prolunghe, cioè prolunghe da un metro e mezzo. Tempo dei ICOM, perché quando metti c'è le radio sopra, per non avere il cavo pendoloni, no? Pendoloni, allora metti la prolunga, la fai passare dietro, da sotto, capito? Ne sto mettendo una perché questo sforzamento non mi piace, è troppo, ci vuole troppo il cavo, capito? E tanto c'è bene, ci conosce i signori. Ascolta a me, che fine ha fatto Archimede, Massimiliano? Massimiliano c'è un bel lavoro. Si occupa, coordina tutta la manutenzione, tutti gli spostamenti, computer, ponti e balle varie della Mondiapol. Non è piantato in frequenza? No, no. Ehi, c'è altre cose a cui pensare, un lavoro molto delicato quello, molto delicato, ci siamo visti da poco, poi l'avevo telefonato perché avevo un problema ad una radio, mi ha detto che non ne ha più l'attrezzatura, se aveva venduto tutto, capito, se mi cambiava il display del 756, però mi ha detto che non c'aveva più attrezzatura per farlo. Solo la radio non intendo. Sempre fuori in giro a destra e a sinistra, sta anche in ufficio, però è molto impegnato, ma vabbè, un lavoro molto delicato quello lì, seguire tutte quelle cose, mi viene anche via elettronica, mi buffano di sì. Beh certo, ci mancherebbe, non so che ce n'è, vabbè, no, mi sa che di lui tu davanti un po', questo, non ti diciamo, questo cosa otto spegni tutto, via, lo mettiamo così, ecco qua, faccio lo metto in TV, no? Allora, se carico il vostro televisore qua, che me l'hai regalato ancora a me. Vabbè, oddio, regalato. Con il suo sistema altro. Ecco qua. E va bene. Vai, quello che ti avevano regalato. Eia, smart. 32 pollici. Io ho cambiato i LED. Quindi è il pannello. Io no, ho fatto un panino, l'ho già messo. Ma non hai paura quando apri quelle cose così, non sono delicate. No, prima che prese in mano. Quando sono così piccoli va bene, ci stai, mi stanno ben attento al pannello, perché secondo me lo prendi. Quelli vari un po' più grandi, quelli è a rischio, perché il pannello essendo più grande, flette, ti si moclima, ed è un casino poi, è un casino grande. Mamma mia. Vabbè, qualcuno l'ho rotto, più di uno, e dopo... fa parte del lavoro. Non devo succedere, però capita che succede. E poi ne ho un altro smart della Kai, e lì devo procurare il pannello lo stesso, che si è danneggiato il flat, si vede una riga verticale al centro del pannello. Adesso vediamo un po' se riesco a procurarlo. E sotto con il laga. Io sono pronto, cosa c'è il flat? Il flat è quello che va a connettere, no, cla. C'è anche nel telefonino, si chiama flat. Cosa di connessione? È tipo un connettore, non te lo chiama. Io chiamo flat, poi c'è un altro nome, mi pare, poi vabbè, io già so quello che dico, poi, se lo dico sbagliato. C'è quello di danneggiato. È un po' staccato e mi fa questa riga verticale. No, so, vabbè. Queste cose sono molto delicate. Invece nei computer un po' meno, ecco. Poi i televisori è un casino. Vabbè, ci vivo dopo latte, volevo dopo latte, poi c'era quel se no volevo la cannarella. La brittella pulita. No, ma poi il LED è un casino lo stesso, Tipo questo qua, questo smart è un piccolino, lo sono autocostruito tramite questa schedina che mi ha dato Luca, che fa da 4 a 28 e 2 volt, lo metto al massimo, e con quello lì mi testo i LED della TV. Io già va bene, in pratica già va bene, in definitiva. E con chi si vuole, chi si crede, va? Trovo il danno, ecco, dai. Però volevo prendere una cosa più seria, da base, che sono un giocattolino alla fine. Devo cercarlo su internet, ma anche che mi parta da 5 va bene lo stesso, ma forse è meglio anche da 0, ma se mi sono 5 volte va bene così. Devo ti cambio adesso, domani faccio una ricerca e me lo compro. Che fa Vittorio? Dove va Vittorio? Addirittura è radio. E dove? Sulla radio Alfa. Come cosa è? È un ponte 145-62.5. Aspetta. Io ti arrivo, arriviamo al forte. 145? 662.5. Sì. Basta, senza aggiungerci. Oppure sto pensando che sia la radio che sta erogando quasi niente. Aspetta che abbasso, perché sennò non va bene. Stai tranquillo che misurata da Luca con l'analizzatore d'antenna, con l'antenna è perfetta. Non può sbagliare l'analizzatore, Luca. C'è qualche altra cosa, capito? C'è qualche altra cosa, o è troppo bassa, o è... non lo so, c'è qualche altra cosa. C'è qualche altra cosa. Ma barilotto c'hai? No, cavo, tutto uno, non è fatto il barilotto. Quando l'ho spostata, dopo la passata la prima volta, l'ho messa un po' più indietro e ho recuperato tipo 3-4 metri di cavo, forse anche 5. Poi ci gira le balle e lui. Non fermo tutto in terra. E vedi che già funziona. Si fa cura, si mettono un punto dove ci di tu, si mette il palo alto e vedi che già funziona, perché quelle antenne sono balorde. Se tu le metti basse oppure le metti a fianco a qualcosa, che vede qualcosa, legge qualcosa, tiranno il proprio la metà della resa. Lo so. Siamo disgabizzato. Pensare che la mia sia piazzata a me non me ne ha tutti più nulla, capito? Io quando ho attivi ponti, queste cose così, per me il PMR è uno svago come la 27, quindi che arrivi, che non arrivi, pazienza, non me ne ha fatto nulla. Però anche la mia vorrebbe messa ancora più alta e più invece l'ho messa bassa bassa, dove c'era la manta, faccio 2 metri di tubo, capito? Forse anche colpa mia è perché tiro col segnale, perché vedo che gli altri arrivi fortissimo, quindi può darsi dunque la colpa sia la mia verso di te, perché tieni conto che io ho problemi con Gianni e Gianni problemi non ne ha, è un problema di divisione ottica, di antenne, di ricezione, capito? Non è fatto, ma se più arrivo con 9, che adesso non arrivo niente, vabbè. Io l'ho sottratta l'antenna, Lucarie, non ce l'ho più dove era prima, dove abbiamo tolto le direttive. Dove abbiamo tolto le direttive adesso c'è la Mantova. L'ho messa dall'altra parte, leggermente più indietro, quindi può darsi pure che abbia perso io nei tuoi confronti, non lo so. Non ti va segmentare in UHF a chi è una frequenza di merda. No, voglio arrivare lì, non è che mi interessi. Di credi, no, ti pare lì, c'è cappetta, lui, era più cana. No, poi arrivo a stesso, non è che non arrivi, arrivi zero, no. Da 9 si è passato a 5, quindi provarci, ti ripeto che sia, come ho sfruttato, io mi ricordo proprio con Vittorio, una volta, quando io ho iniziato a fare, ma avevo poca roba, facevo le VLU, avevo sfruttato la X500, allora la prima, non la 510, la X500, di un paio di metri, ecco, non eccitavo più il ponte di Monterraggio, capito? Non eccitavo più. Proprio Vittorio mi ha detto, ma hai fatto gli sfruttamenti, perché anche questo è più basso in diretta. Ho sfruttato l'antenna a 2 metri, no, rimettila dove era, e l'ho rimessa dove era, mi raggio bugata da in chivi e nada, e lì ne abbiamo tolta, solo che prima era con un tubo unico, poi era sopra il sistema, non sopra il traliccio, però sempre lì è stata. All'altra parte avevo perso almeno 5-6 dB. Lo so, beh, vabbè, lo so che è una frequenza un po' così. Vabbè, dai, lo posso, purtroppo non c'è, ci sono degli ostacoli, è un casino, non è come la 27 che passi tranquillamente, spacca tutto, c'è quella lì un po' così, dai. No, vabbè, no, ripeto, ma di gusti non ha fottuta. L'UHF sto parlando, è lui, l'UHF le abbiamo sperimentate tutti, abbiamo fatto una prova, guarda, io sono alto, sono alto, e arrivo dopo le gallerie, arrivo in VHF in Capalmondo, ok, in UHF dopo la piana di Ploaghe non si intende più nulla, a casa mia, mi. Sì, ti credo, allora, ripeto, lo lascio così, non mi interessa. In diretta, senza ponte, in diretta, mentre in VHF accompagno, non ce n'è problema, non ce n'è problema, capito? Le VHF sono micidiali, sono molto molto toste, molto molto, ma anche i ponti, anche gli stessi ponti, con cavità, antenne, watt a volontà, hanno sempre grande difficoltà rispetto ai ponti VHF, capito? Per quello che sto dicendo, non è fare una malattia, perché può essere anche un mio spostamento che ha perso il VHF, in UHF, capito? No, io non me li posso segmentare, giusto così. Ripeto, stasera che ho il BL l'ha messo male, la vita, non l'ha messo bene. Allora, l'ho cambiato, l'ho messo quello proprio a vitale sopra il capo. Adesso è bello fermo e tranquillo e sereno. Saldato. Senti la ghisa, senti. Mi sembra giù anche un'idea. Il filtro per quella nota va, un rincorro sotto. C'ha il materassino, perché c'è il materassino dentro casa e la brandina fuori dal poggiolo. E c'ha il suolo sotto, come un letto nostro, no? Materasso, materassino per il cane, c'ha il lenzuolo di sotto, poi è la copertina c'è sopra, in lana, arancione, e si vede giuro Rugabbo o Gurarecci. No, non c'ha la, ma lei c'ha la cucettina che era di luna, è una copertina di quella in paille, e si colica sopra, lei non ci va sotto, poi quando arriva l'Alfredo Freddo se ne andrà sotto. Però ho notato che questi giorni, da quando è qua, ancora sotto non c'è andata e dorme così. No, Filippo si gocca sopra del tuolo, perché workshop. Tutti guarda, dice, beh, non me la buona la manta. E quando poi viene in perché c'è nel salone il materassino, quando noi spegniamo tutto ce ne andiamo, lui vuole portarglielo vicino al letto, quello che è vicino al letto mio, no? E quando ci gira la notte quando ci gira, perché si scopre, perché si gira ogni tanto, no? Come facciamo noi, solo noi ti dappemmo, ti mette il muso, infatti io dormo poco anche per quello, ti mette il muso vicino al cuscino e capito, a dire, ma io coprimi, allora lo devo durare a tappare, anzi tutta la notte così. Lo so, ma come si dormiglia, va? No, la te dormo tutta la notte, poi sono una cucciola piccolina da dorme, non rompo le palle, meglio così, dai. Non me ne sono pentito, però non devo aspettare un po' là. E lui troppo presto, se dovesse mancare Filippo così all'improvviso, no, a casa non più, scusa che sono lontano, sto mettendo a posto il baracchino, ecco qua, capito? Non me la sento di prendere un altro cane per casa, basta così, campagna sì, però a casa no. È un impegno grande, lui, un impegno grande, grande, grande. Lo so da luna io. Anche se magari ho aiutato qua, lo portavo anche loro. Vabbè. Ma ti sentivo lo stesso, Clara, che ti sei spostato io, che se non amplificavo la radio. No, io posso camminare in tutta la stanza, non ce n'è di problema. Questo è 140, con l'MC60 e funziona molto molto bene, poi me l'ha giocato ben me, ha fatto tutte le prove a distanza anche, capito? Proprio per farlo andare bene. Comunque pensavo entrarci Antonello a fare due prove con la radio sua, che ha fatto due accorgimenti, invece devo essere ancora travaglienti. Attento Antonello! No. Non c'è, vabbè, lo troveremo domani, dai, non c'è problema. Eia, beh, calma, mi sa che miglioriamo, dai. E anche io mi sono come da biocandy. Tanto il timer l'ho già messo, l'autospegnimento. Beh, vediamo un po' di aggiornarci domani sera, se ce la fai, fammi sapere. E se no un altro giorno non è un problema, tranquillo. No, ma non dovrei avere problemi. Magari prezzo a prezzo no, alle 3, magari facciamo verso le 4, 5, non lo so, se scendi giù tu me lo dici, io ti raggiungo, capito, tanto non ci vuole niente. Eia, va benissimo anche alle 5, di lusso, perfetto. Io non ti preoccupare, già va bene, anche 4 e mezzo, va, ma alle 3, alle 3 non ce la faccio, perché magari sembra che arrivi alle 3 da lavoro, e da l'una alle 3. Sostituendo la sua collega, la vado andare in ferie, invece non c'è andata, ma la prossima settimana. No, va bene, ok, e poi già ci aggiorniamo domani mattina, vabbè. Già ti mando un messaggio domani mattina, ok? Ciao, buonanotte, rimango ancora qua in stanza, mi finisco due cosette e poi già me ne vado andando anch'io. Ehi, Acrada, buonanotte, salutami a Anna, Ilaria, e ci sentiamo, là. Ciao, ciao, a domani. Ciao Lucia, grazie di tutto, ciao. Attento Antonello.